497. Cefali in gratella. Le anguille di Comacchio richiamano alla memoria i cefali, abitatori delle stesse valli, i quali, quando sono portati ai mercati, verso la fine di autunno, sono belli, grassi e di ottimo sapore. I comacchesi li trattano nella seguente maniera che persuade. Levano a questo pesce le scaglie e le branchie, ma non li sbuzzano, perché le interiora, come nella beccaccia, dicono che sono il meglio. Li condiscono con sale e pepe soltanto e li pongono sulla gratella a fuoco ardente. Cotti che siano, li mettono tra due piatti caldi, non lontani dal fuoco, per 5 minuti. Al momento di servirli, rivolgono i piatti che quel di sopra vada sotto e il grasso colato rimanga così sparso e steso sopra il pesce, mandandolo in tavola con limone da strizzare. Al numero 688 è dato un cenno come li servono in Romagna.